Lights. Il 3 fanno tutti pezzi d'amore. Questo è un pezzo di non amore. Hey, più di 1000 giorni insieme. Adesso dormo da solo, parlo da solo, non voglio cercarlo lavoro. Tutti uguali, prendo le distanze da loro. Chiudo le danze per un bel po', nonostante le adoro. Te ci hai mai pensato a tutte le volte che mi hai usato, a tutte le urla che hai causato? Se ci penso adesso resto nauseato. Poi cos'è cambiato? Mi dicevi sempre malato, che sto nell'ambiente sbagliato. La mia vita è un dente cariato. Quindi cosa ti sbatti? Datti che non voglio fare patti. Bevo come i matti, riesco solo a mangiare e dormire come i gatti, che con un taglio non lo spezzi, anche se non ho il cuore d'acciaio. Non è come lo immagineresti, resto freddo come un ghiacciaio. Non c'è modo di farmi cambiare idea. Non c'è modo di farmi cambiare idea. Non importa se davanti a una dea, a me sembra solo un fiore morto travestito da orchidea. Tu mi hai mandato fuori di testa, fino a farmi dubitare di me. Adesso sei da sola nella tempesta, dimmi a stare male, ora chi è? Hey, perciò prepara i bagagli, mettici dentro gli sbagli, i rimpianti, falli strisciare fuori come serpenti a sonagli. Ah, aspetto che deragli, i sentimenti sono i bersagli. Mi fisso sui dettagli, aspetto un po' d'aria fresca ma non ho ventagli. L'amore mette i guinzagli, non lo credi ti sbagli. Ti mette i bavagli e ti fa correre dritto senza vedere come i cavalli. Il ritmo prosegue e tu balli, senza sapere che sono sciacalli. Tu riesci pure ad amarli, non te la cavi, l'amore è un film di Lynch. Il senso è sempre nascosto ed è l'opposto di quello che pensavi. Come fare per sfuggire alla pressa delle pareti, quando sbatti i piedi e pensi che è tanto tempo che non la vedi? Non ci sono trucchi, l'amore è un albero ma sono marcifrutti. Ma tanto a pezzi o distrutti, prima o poi ci diventiamo tutti. Non ci sono trucchi, l'amore è un albero ma sono marcifrutti. Ma tanto a pezzi o distrutti, prima o poi ci rimaniamo tutti. Tu mi hai mandato fuori di testa.